Bentornati a Rock Legends su Radio RCS l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti. Cani. Frequenza 101.5. Dai, efficiente. 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia. Meglio dicendo dai cimbri della Lessinia. E 101.5 per Verona, città e rimanente provincia. Radio RCS la potete ascoltare anche in streaming e in podcast dal sito www.radiorcs.it. Dall'omaggio a Lemmy, una parte dedicata ad alcuni artisti hard blues americani e inglesi catturati dai concerti da vivo degli anni 70. Prima canzone era Wang Dang Sweet Poon Tang di Ted Nugent dal disco Double Live Gonzo del 1978. Un chitarrista feroce che ha lasciato un grande segno nel rock americano, che ne dite? Grande. Sicuramente sì, un gran chitarrista, grande energia sul palco, lui è proprio un vero e proprio animale da palcoscenico. Tra i miei preferiti dell'epoca. Sì, negli anni 70 penso non ci fosse nessuno come lui. Allora, Rockabist è il titolo del vostro disco. Quale è il significato che avete voluto dare? Ma diciamo, Rockabist significa praticamente in italiano rocca bestia, cioè è rocker estremo a 360 gradi. Cioè, tutto quello che prende il rock, a cui piace tutto il rock, ma soprattutto lo spirito del rock, cioè che il vero spirito del rock and roll è alla fine divertirsi. Sì, il proprio titolo è rock di varie influenze, come ha detto Cib, e soprattutto sporco e bestia, quindi insomma, vero rock and roll, dai. Sì, a 360 gradi, comprende tutto. Anche le influenze future del rock and roll, quello più classico, quello un po' più punk o post-core di tutto un po', dai. Esatto, tutto. Prendiamo nella definizione più ampia. Ampio. Proseguiamo con i Foghat, la band di Dave Peverett e Roger Earl, dopo un passato blues nei Savoy Brown, virano ad un hard boogie che troverà molta fortuna negli Stati Uniti. Dal disco Foghat Live del 1977, la potente esibizione di Slow Ride. We'll be right back. I Fogat sono tra le band meno citate tra gli appassionati di hard rock, non si può negare comunque che trasmettessero grande energia sul palco. Indubbiamente, il loro periodo d'oro l'hanno vissuto nella seconda metà degli anni 70 e poi purtroppo sono caduti nel dimenticatoio. Però sai Gianluca, ultimamente c'è un po' di ritorno, perché Slow Ride l'ho sentita nel videogioco GTA Sant' Andreas e è sempre in Guitar Hero 3. E guarda caso, fatalità, questi giochini stanno tornando. Infatti fanno scoprire a molti ragazzini band che magari per loro era improponibile scoprire se magari non avevano un fratello maggiore. E speriamo che riscoprino anche i CD di questi artisti, non solo. Purtroppo, per fortuna, c'è una miriade di nomi mostruosamente buoni come band, che hanno tutte qualcosa da dire, che hanno suonato e che stanno suonando. E tutto questo fa un bagaglio che non va dimenticato neanche per caso di Fogat. Comunque sai che tornando a Slow Ride, l'ultima volta dove l'ho sentita nel film Svalvolati on the Road. Ecco. Bravo. Quindi dai, stanno tornando un po' a galla, chissà che. Speriamo. Speriamo. Durante le vostre esibizioni live vi siete trovati a confrontarvi sul palco con altre band. Com'è stata questa esperienza e se ne avete tratto qualcosa di positivo? Positivo principalmente tanta festa e tanta esperienza per noi per primi. Noi siamo una band che non si confronta tanto, cioè nel senso abbiamo lo spirito classico rock all'americana, cioè non cerchiamo un confronto con altre band, ma cerchiamo comunque una fratellanza. Esatto, una collaborazione, una fratellanza. Ci sono stati casi dove ho messo case a disposizione perché la band veniva da distante. Come noi siamo stati ospitati in giro, ospitiamo le band senza questa pensare. È una bella cosa. Esatto. Comunque si impara sempre a dividere il palco con altre persone, sia in Italia che all'estero, con chiunque, qualunque musicista di qualsiasi estrazione musicale, che vada dal rock al punk al metal. Si impara sempre uno dall'altro, da come suonano a come persone. Proprio un fatto di conoscere gente, più che... È forse uno dei lati più belli della vita on the road, della musica in generale. Conoscere gente, vedere posti nuovi e imparare cose nuove. Vediamo allora la seconda parte con Johnny Winter, il grande chitarrista texano fotografato dal disco Capture Live del 1976, con una feroce Rock and Roll People. Noi torniamo dopo la pubblicità con i Cani, che ci faranno ascoltare 6 canzoni dal loro disco Rock Beast. Non mancate. Couldn't change things about you. Sweet, sweet.